tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del calendario anticlericale, del notiziario anticlericale. Oggi parliamo di UAR, Unione degli Atei, Rai Storia, Canale 54, Rai Scuola 146, del Guicciardini, e della chiusura di una scuola clericale in Val Camonica, di La Sette, più le conclusioni. Disastro UAR. Purtroppo è arrivato l'annual report 2019 dell'Associazione degli Atei e gli iscritti sono calati da 3.684 del 2015 a solo 3.322 nel 2019. Addirittura i circoli sono crollati da 62 a 37. Comunque l'annual report 2019 dell'UAR riporta cose molto interessanti contro l'identitarismo religioso, contro il Papa presunto rivoluzionario, contro i manifesti atei censurati a Genova. Abbiamo poi la campagna Testa o Croce sui diritti delle donne, la difesa della 194. Abbiamo poi le cerimonie laiche che si possono fare, per esempio matrimoni o funerali tramite l'UAR. Le iniziative con altre associazioni, la grande manifestazione di Roma di Verona del 30 marzo, il congresso dell'UAR che c'è stato in marzo a Rimini. Abbiamo poi il sondaggio Doxa che dimostra come gli atei e gli agnostici in Italia sono il 15%. Si parla della scarsa laicità in Italia contro il crocifisso nelle scuole. Tematiche di fine vita, l'UAR si è impegnata anche con manifesti liberi di scegliere, liberi di volare via. La campagna contro gli oneri di culto vede la città di Imola in Romagna la prima in Italia che ha azzerato gli oneri di culto. Si parla poi dei 30 anni di laicità sulla sentenza numero 203 del 1989 della Corte Costituzionale. Contro l'ora di religione si parla del campus UAR tenuto nella sede dell'UAR di Roma. Si parla poi dei premi di laurea sulle tematiche laiche e anticlericali e della casa editrice Nessun Dogma. Abbiamo poi su Rai Storia, giovedì scorso alle ore 16, un programma su Crispi, il quale appoggiò il monumento a Giordano Bruno, era anticlericale e contro il Vaticano. Su Rai Scuola, settimana scorsa, alle 12 del 14 maggio, un bel servizio su Voltaire e l'illuminismo. Roghi dell'Inquisizione, critica del fanatismo religioso, e il terremoto di Lisbona come mancanza di qualsiasi protezione divina, la tolleranza e infine chi sono gli eredi di Voltaire? Gli eredi di Voltaire siamo noi liberi pensatori. Su Il Giorno un bel servizio su Guicciardini. In pratica sono usciti dei documenti che provano come Papa Clemente VII della famiglia dei banchieri, ricordiamo che la Banca del Vaticano, lo Iore, eccetera, la famiglia di banchieri fiorentini dirottò le barbare orde dei lanzichenecchi su Roma e per salvare la sua Firenze. Abbiamo poi la chiusura di una scuola clericale a Cembo di Capodiponte in Val Camonica, 80 alunni lasciati a spasso da un giorno all'altro. I genitori non l'hanno presa bene e hanno fatto dei documenti molto pesanti. Sabato 9 maggio il film Terra e Libertà con la fucilazione del prete è stato mandato alle 23.45 sulla 7. Poesie anticlericali. Tu scendi dalle stelle e senza freni e sbatti in una roccia e poi ti svieni. Oh Dio sbadato, sai dirmi tu perché non hai frenato? Abbiamo poi dal mio libro Piccolo dizionario di terminologia atea che cosa sono gli atei. Gli atei dichiarati sostengono una visione del mondo in cui la presenza del divino è esclusa. Sono materialisti dichiarati. A. Linetta teismo, opzione filosofica che prescinde da Dio senza negarlo, dal professor Luigi Lombardi Vallauri, il nipote del microfono di Dio che ha tradito e passato all'ateismo, o meglio all'axteismo. Dal mio calendario anticlericale, 10 maggio 2018, blindati conti IOR, il Vaticano respinge i sequestri disposti dalla magistratura italiana. 11 maggio 2018, fulmine anticlericale. Colpisce la chiesa di Garbagnate durante la messa, distrutto l'impianto audio. 12 maggio 2017, sacerdote dell'abbadia di Grimbergen in Belgio accusato di atti immorali, arrestato dalla polizia, ben gli sta. 13 maggio 2018, nuove rivelazioni su Andreotti, incontrò il boss mafioso Bontade almeno due volte, la chiesa e la mafia, la pia mafia. 14 maggio 2016, prete inglese pedofilo arrestato in Kosovo, era latitante da ben 5 anni. 15 maggio 2018, grande raduno di clerico fascisti croati in Carinzia, Austria, con la benedizione dell'arcivescovo di Vienna. 16 maggio 2017, don Edoardo Scordio, mister misericordia, aveva un patto di ferro con i boss di Isola di Capo Rizzuto e Crotone, mega truffa allo Stato. Don Edoardo Scordio poi è sotto processo dalla magistratura. Bene, carissimi, saluti a tutti e alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Chi vuole contattarmi può mandarmi sms o chiamarmi al 331 730 2874. Saluti a tutti.